Una buona sera a Radio Città del Capo, in compagnia di Max Macchia di 451 Frammenti Sonori, per chi ancora non avesse riconosciuto, insomma, la sigla che da più anni che ci insegue, quantomeno, insomma, importante per quanto ci riguarda, appunto per me e Eliseo Scarpa, me sottoscritto Massimiliano Macchia, Max Macchia, ho detto anche il mio nome per intero, caso mai qualcuno, insomma, voglia sapere per precisamente i miei dati anagrafici, poi vabbè, sulla data di nascita, tra maschio e donna, poi vedremo, insomma, che cosa darvi anche, appunto, come magari riferimenti particolari, insomma, segni particolarissimi. Ma per quanto riguarda 451 Frammenti Sonori, la particolarità è che si fonda su delle musiche che provengono dall'area sperimentale, se di area si può parlare, forse più così, di attitudini sperimentali che rintracciamo sia dentro le musiche che ovviamente derivano da queste classiche contemporanee d'avanguardia, sia il mondo del pop, della black music, insomma varie faccende che ci piace trattare qua, 451 Frammenti Sonori, chiaramente ci mancherebbe, visivi ancora per il momento non ne abbiamo. Salutiamo e, tra l'altro, insomma, come dire, sottotitoliamo anche la trasmissione a Lorenzo Albano, nostro curatore bloghista, si dice così, va bene, comunque, che appunto cura 451 frammentisonori.noblogs, per chi voglia, insomma, andare a riascoltare soprattutto le vecchie trasmissioni che da un po' di tempo, insomma, trovate appunto sul blog. E poi, vabbè, tra l'altro troverete anche un po' di cosettine varie, soprattutto legate a Aria Sismica, un locale in cui ci troviamo decisamente bene, soprattutto per le musiche che trasmettono, per personaggi che riescono ancora in tempi veramente incredibili, per quanto appunto siano difficili, comunque riescono ancora a portare suoni decisamente sperimentali nel territorio nazionale, perché in effetti il respiro è internazionale, se non di più, di Aria Sismica. Quindi troverete anche un po' di riferimenti, insomma, allo storico oramai locale romagnolo. E questa sera 451 Frammenti Sonori, appunto in compagnia di Max Macchia, bistratterà il rumore, quindi anche voi di conseguenza, spostamenti progressivi del rumore o del piacere, forse questo è il connubio che questa sera cercherò nella fattispecie. E quando si parla di rumore non si può che anche parlare di piacere, un piacere che, per quanto possa essere visto in maniera perversa, poi di fatto, insomma, ci porta anche decisamente lontano da così le quotidianità, o anche se paradossalmente magari ci potrebbe portare anche vicino ad esse, visto che tante musiche che si basano, insomma, sul rumore, sul noise, vengono proprio anche dal rumorismo, dal rumore quotidiano. Il rumorismo poi diventa dopo, quando appunto viene trattato, se pensiamo ad esempio a tutta la scuola, se così possiamo considerare l'industrial, ma diventa un traslato, un qualcosa che appunto sfiora anche l'iperbolico, a volte anche l'estatico, per quanto è forte, per quanto è ottundente il rumore. Questa sera il gioco sarà quello di trovare appunto questi spostamenti dentro le varie tipologie che tratteremo, quelle che possono passare più da un suono brutalista a qualcosa che invece non ha per forza a che fare, insomma, con il rumorismo in senso stretto, ma ad esempio con l'implosione, o ad esempio anche con un mondo para jazzato, quasi sinfonico dentro appunto una sinfonia che comunque si vuole anche questa più concettuale, più vicina probabilmente a una sinfonia russoliana che altro, insomma, che una sinfonia strettamente classica. E se in effetti si deve parlare in un certo qual modo di un approccio che parte dal classico per arrivare veramente a una interessantissima sintesi, è quella di Jason Lescalé, un personaggio che dal 2002, quindi ai primi anni zero, ci delizia o ci sommerge di rumore, probabilmente da queste parti ci delizia. Abbiamo così avuto modo di passare, e chissà qualcuno di voi anche ad ascoltare quel gioiello che è il lavoro, anzi due gioielli fatti con Imperin, appunto quel mondo parajazzistico impro che vede l'Imperin negli anni zero protagonisti quasi assoluti di quel viatico incredibile musicale. Jason Lescalé poi ha fatto anche lavori più vicini a Sound Art, ad esempio con Udak, John Udak, e con Jazz O'Khan ha trattato magari in maniera più specifica l'elettronica più virale, se vogliamo insomma trovare forse un Jason Lescalé più elettronico, se non appunto l'ultimo, quello di Song About Fucking, che poi in realtà diventa Nothing appunto con lui. È un gioco di parole perché Song About Fucking per l'appunto era a titolo celeberrimo per chi ha amato il noise di fine anni 80 legato a Big Black, Steve Albini, formazione che uno faceva un'iperbole sì, del suono rockista ad arrivare insomma ad un noise anche piuttosto così legato a una forma quasi di show, quasi plateale come forma noise, come d'altronde tante volte è stato Steve Albini. Jason Lescalé riprende appunto quel titolo trasformando in Song About Nothing, riprendendo anche la copertina, quel verde con quel fumetto dove si vedevano due personaggi insomma piuttosto alterati, proprio perché insomma disegnati durante un rapporto sessuale, e Jason Lescalé fa diventare quel fucking nothing, ovvero proprio probabilmente così segnando i tempi, le canzoni dopo niente, dopo non aver fatto niente, dopo che non sia successo niente. Di cose ne sono successe tante poi in realtà in questi anni dai Big Black in poi, però non hanno più di certo l'effetto che ebbero insomma Steve Albini and Company quando fecero uscire quel disco, quando insomma musicalmente il rumore e quello che anche circolava intorno alla musica e al rumore della musica stessa, quindi dell'estetica sonora, dell'arte musicale, sicuramente insomma aveva un peso decisamente maggiore rispetto a ora, ma forse Jason Lescalé, appunto riprendendo lo storico titolo e anche insomma la copertina, se non anche alcune volte l'attitudine, sicuramente insomma vuole andare a, come dire, riaprire probabilmente un solco che forse molti vorrebbero chiuso insomma per l'effetto mainstream e quindi definitivo di musiche che non dall'underground non riescono più a diventare mainstream, come invece succedeva appunto all'epoca. Steve Albini poi addirittura produsse in Nirvana, pur avendo un suono decisamente duro, di questi tempi insomma veramente sono non rari casi, ma quasi quasi unici direi, quelli che appunto dall'underground diventano mainstream. Probabilmente è un modo di ripensare anche lo stesso underground musicale, quello che significa, quello che può ancora significare, e forse anche appunto quello che può significare il rumore musicale in tutti i sensi. Jason Lescalé appunto per spostamenti progressivi del rumore. Wait a minute. Rolling, take one. Thank you. Jason Lescalé con Song About Nothing, pezzo veramente notevole per uso del drone rumoristico con alternanze anche così legate a radiofonie e distorsioni quotidiane, appunto come accennavo anche un po' prima, trattamento chiaramente onirico, seppure insomma il rumorismo rimane anzi trattato in una maniera assolutamente magistrale, e che forse uno Jason Lescalé dei grandi rumoristi nei nostri giorni, oltre che essere insomma artista concettuale decisamente interessante. Da appunto Lescalé a Ron Dilloway sembrerebbe lontano il discorso, in realtà siamo molto molto vicini, capirete anche perché. Thank you. Seriamente notevole il lavoro di Aaron Dilloway, anche lui come l'escalé partendo dagli anni zero si è conquistato pieno merito, l'appellativo probabilmente di re del rumore, non per altro perché è stato con i Wolf Eyes, quindi insomma probabilmente il gruppo più tremendista degli anni zero, oltre che quello probabilmente anche più scioccante in termini di rumore e anche di rumore intorno alla musica, quello che sono appunto riusciti anche a destare Wolf Eyes quasi in maniera così veramente atipica rispetto appunto anche a molte altre formazioni. Se qua pensiamo che c'è stata un'intera scena americana dedicata al noise, insistendo anche su forme bruttiste, ma non solo, anche con agganci a quello che fu insomma l'industrial, eppure come dire rimane cosa di pochi, rimane sempre una faccenda underground, seppur insomma un movimento così forte, così intessuto veramente da tanto tempo che non si assisteva, non veniva di fatto insomma vissuto da molti anni un'esperienza appunto così totalizzante come una nuova scena noise americana. Tant'è che comunque Wolf Eyes, come dire, sono anche stati oggetto di copertine anche di magazine famosi, sono riusciti anche a fare lavori per la Sub Pop, etichetta che appunto citavamo Steve Albini, che veniva appunto citato da Jason Lescalé, legato appunto al Sub Pop per il periodo grunge, quando appunto Nirvana, seppur insomma in periodo già più così mainstream a tutti gli effetti, passarono appunto comunque dalle mani di Steve Albini, post Sub Pop che proprio negli anni zero produrrà uno dei dischi più forse più famoso tra virgolette dei Wolf Eyes. Aaron Dilloway viene comunque da quella esperienza incredibile che ancora sforna cose micidiali, e tra l'altro non ha abbandonato del tutto i suoi compagni, molti insomma hanno ancora l'idea di rottura, magari appunto un membro della formazione se ne va sbattendo la porta, in realtà qua le faccende sono molto più mischiate, anche questo appunto attesta il fatto che una scena noise ancora piuttosto viva, seppur trasformata, c'è ancora di fatto Nate Young appunto ancora nei Wolf Eyes e dentro il lavoro di questo splendido lavoro di appunto Aaron Dilloway, Monster Register, tra l'altro uno dei dischi indicati insomma per chi voglia insomma tuffarsi in suoni morbosamente, stupendamente rumoristi. E tra l'altro c'era anche Twig Harper, altro storico di Nautical Almanac, ecco, magari facendo appunto l'esempio con Wolf Eyes, Nautical Almanac, se Wolf Eyes qualcuno li conosce, Nautical Almanac è già difficile invece raggiungerli, eppure insomma formazione assolutamente fondante, importantissima della scena noise americana appunto degli anni zero. Qua si fanno aiutare in un ben non definito assistenza psichica, infinita assistenza psichica, così perlomeno scrive Aaron Dilloway, ma insomma Aaron Dilloway lavora anche molto su forme astratte, anche a volte provocatorie, sempre con quel disegno mostruoso, come appunto ci dice anche il titolo del suo penultimo disco, visto che anche come Wolf Eyes, come la sua vecchia formazione, continua a sfornare materiale su materiale, tutto decisamente interessante, più o meno, chiaramente ci sono dei picchi. Questo Monster Jester sicuramente è uno dei picchi di Aaron Dilloway, e un altro probabilmente anche dei picchi, prima dicevo appunto così, interrompendo il flusso tra Jason Lescalé e Aaron Dilloway, che i due sembrerebbero non centrare molto, perché uno viene potenzialmente da quello che può essere la musica impro jazz, appunto è nato con una collaborazione con Imperi nel lavoro appunto di L'Escalée, e per tanti versi insomma più vicino alla sound art, appunto prima citavamo John Hudak, e L'Escalée però già con questo Son About Nothing è arrivato insomma al rumore, a che rumore anche, a un spostamento progressivo sul serio appunto di quello che è il suo viaggio dentro il noise, e è arrivato a tal punto da incontrare anche sulla strada appunto Aaron Dilloway, ma ci vuole proprio un appunto, e hanno fatto un disco insieme qualche mese fa, tra l'altro sia Song About Nothing sia Monster Gister e sia questo Grapes or Snakes escono proprio nel 2012, appunto Aaron Dilloway insieme a Jason L'Escalée, per un viaggio veramente eccezionale dentro quello che può essere appunto la tessitura rumorista, quello che è appunto questo spostamento progressivo del rumore dentro lo stesso rumore, la tessitura anche fina che c'è dentro questo lavoro, dentro questi maestri, si può dire a questo punto, del suono noise, del rumore che questa sera stiamo trattando a 451 frammenti sonori. Aaron Dilloway e Jason L'Escalée. flussi sonori terribilmente suggestivi, quelli di Aaron Dillaway insieme a Jason Lescalé per questo Grapes Snakes. Fatelo vostro sul serio questo splendido lavoro, che veramente va a toccare punti molto interessanti anche di quello che appunto possono essere i nuovi aspetti del noise. Avete sentito un riferimento alle frequenze, al appunto quel suono frequenziale tanto insomma legato a certo trattamento del rumore alla lontana della glitch music di certi Pansonic, e dentro appunto queste ottundenze sonore, questi brumi brutisti di Aaron Dillaway, di chiara matrice Wolf Vaiana, se vogliamo, con quel suo particolare insomma diramazione che ci porta verso quel mondo finto tribale che ha sempre un po' così attratto l'attenzione, la fantasia di Aaron Dillaway, una maniera quasi primitivista di trattare il suono rumore. E se di suono primitivo e di tipologie, come accennavamo all'inizio della trasmissione, stiamo trattando questa prima parte con le scale di Dillaway, quindi un suono para improvvisativo e decisamente brutista e ultra noise, con i padri probabilmente di questo suono per quanto riguarda perlomeno gli Stati Uniti d'America, e quindi il riferimento insomma chiaro a Aaron Dillaway, ma anche per molti aspetti alle scale, sicuramente quello di Fatrix e di Monte Casazza, insieme per uno storico e incredibile disco California Babylon, siamo nell'81 circa, disco cacofonico ma di grande ispirazione anche lirica, se vogliamo, oltre che le grandi provocazioni di Monte Casazza, quello che si inventò proprio il termine industrial. Poi Radio Giornale, torniamo nella seconda parte appunto con spostamenti progressivi del rumore. Fatevi un bel viaggio ultrasonico con Fatrix e Monte Casazza. Thank you. left to reconstruct. Faceless brains with no commitment. Birds chirping senselessly in the ignorant dawn. The sky produces suns like welfare mothers. No meaning, just one after another. Restituiremo agli italiani i soldi dell'IMU. Berlusconi rilancia la sua campagna elettorale puntando tutto sulla casa.